Il problema nasce chiaramente dalla questione madre, che è quella salariale, che è una questione enorme che riguarda tutti i settori lavorativi di questo paese, perché sono dati non nostri, Eurostat, che dicono che i salari reali in Italia sono addirittura arretrati, cioè il rapporto tra il potere d'acquisto dei salari è diminuito nel corso degli ultimi 20 anni. Questo è particolarmente vero nel pubblico impiego, dove abbiamo scontato 6 anni di blocco contrattuale, quindi abbiamo saltato 2 tornate, e dove non c'è contrattazione economica sostanzialmente, perché è il governo che decide quanto stanziare, e come nei contratti che stiamo rinnovando ora spesso stanzia cifre inferiori all'inflazione. Attualmente hanno stanziato circa 1/3 di quello che noi abbiamo perso come potere d'acquisto dei salari. È chiaro che la questione salariale è strettamente legata anche al caro vita, e nel caro vita la voce casa pesa enormemente. E quindi che cosa succede nel pubblico impiego? Che si fanno i concorsi, si vincono spesso in città, non nelle proprie città, per cui ci si deve trasferire, il salario d'ingresso è molto basso, il prezzo della casa spesso e volentieri prende il 50-60% del salario, e quindi si è costretti a rinunciare. Noi siamo partiti da qua, cioè dal fatto che nonostante sia aumentato molto il numero dei concorsi, anche se ancora è del tutto insufficiente a coprire le carenze d'organico, in realtà non si riescono, ci sono dei buchi enormi soprattutto nelle amministrazioni del nord, perché laddove la casa costa di più ci assistiamo a un numero di rinunce decisamente troppo elevato. Diciamo che nel centro-nord abbiamo un numero di rinunce mediamente il doppio rispetto al meridione. Quindi partendo da qua ci siamo posti il problema di come affrontare questa, che riteniamo sia un'emergenza, ovviamente cercando di comunque un problema casa più generale che riguarda ampi strati della popolazione che non hanno accesso o che hanno difficoltà a mantenere un affitto. Ci sono categorie concorsuali, diciamo, più soggette a questi problemi? E tendenzialmente lo stiamo verificando soprattutto nelle funzioni centrali, cioè nello Stato, negli statali, parastatali, che hanno salari abbastanza bassi, sono quelli dove c'è forse maggiore carenza d'organico, e sono quelli soprattutto che vengono mandati in sedi lontane da casa, perché sai, gli enti locali, la sanità, bene o male, sai, i concorsi sono più locali che per natura stessa di quel tipo di amministrazione, per cui si fanno concorsi per posti, diciamo, tendenzialmente nel proprio territorio. Nelle funzioni centrali questo fenomeno è assolutamente evidente, e ripeto, assume ormai la dimensione, diciamo, un ostacolo a un tentativo di rilancio della pubblica amministrazione, perché non si continua a non coprire la carenza d'organico, che è il principale problema del pubblico impiego. La soluzione passa da un'indicizzazione dei salari all'inflazione? È chiaro che la questione madre è quella, come dicevo all'inizio, cioè il problema vero è la questione salariale, cioè si guadagna troppo poco in Italia, si guadagna troppo poco nel pubblico impiego italiano, quella è la questione madre. Dopodiché c'è un problema comunque anche specifico sulla casa, perché assistiamo stiamo svolgendo una piccola inchiesta che intendiamo rilanciare adesso in autunno tra i nuovi assunti, per capire, noi assunti fuori sede, per capire l'entità, come dire, concretamente come gli va a pesare l'affitto di una stanza, o addirittura parliamo di una stanza o di una casa rispetto al proprio salario. Diciamo le cifre che stanno venendo fuori mediamente stanno tra i 7 e gli 800 euro al mese, considerando che spesso il salario d'ingresso è intorno ai 1.400 e stiamo tra il 50% e il 60%, quindi questo vale, però pure vale chiaramente per il pubblico impiego, dove noi stiamo facendo tutto il ragionamento, un'iniziativa sul piano salariale a livello contrattuale, e abbiamo appunto lanciato questa campagna sulla casa, ma riguarda pure la popolazione in generale. Quindi c'è un problema salariale, ma c'è anche un problema che la casa è un diritto primario e non può costare più di metà salario. Un problema che si è acuito ad esempio nelle città come Bologna, abbiamo visto, esatto, che uno dei problemi è anche, come dire, l'esplosione turistica. Quali soluzioni per la casa ci potrebbero essere? Questo è un campo non mio, come sapete, SB ha una categoria, si chiama Asia, che si occupa strettamente di questo, però è chiaro che c'è un problema di edilizia pubblica che va rilanciata. Riteniamo, a partire soprattutto dal recupero di stabili che sono interamente magari non utilizzati, c'è un problema di case vuote, quindi pensiamo si debba partire essenzialmente da là, sia necessario mettere un tetto agli affitti, perché chiaramente questa situazione che stiamo vivendo, tra le tante cause, parte sicuramente dall'abolizione dell'equo canone, per cui assistiamo appunto a un mercato che è proliferato, il famoso mercato libero, e stiamo assistendo a quello. quello che produce un po' su tutto, se pensate all'energia, ma anche sulla gas. Per cui sì, vanno prese misure specifiche su questo tema.